in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, ben trovati alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Oggi, ieri, in realtà anche domani e nei prossimi giorni sono giorni di lutto per noi qui al Sole 24 Ore, perché venerdì è morto all'improvviso, anche perché aveva avuto un aneurisma solo 13 giorni prima, il vice direttore Fabrizio Forché, che spesso abbiamo letto nei suoi editoriali, io qui alla domenica e ovviamente durante le altre rassegne stampa, e che sicuramente gli ascoltatori conoscono perché partecipava anche quasi ogni venerdì alla trasmissione di Roberta Giordano Effetto Notte, con il suo ricapitolare la settimana politica italiana. A Fabrizio Forché è dedicato il ricordo che il Sole 24 Ore pubblica oggi in prima pagina, firmato da Roberto Napoletano, nostro direttore, nostro del Sole e di Radio 24. Poi c'è un ricordo di Giuliano Amato, l'esponente politico ex, che è stato ministro dell'interno, e quando era ministro dell'interno Fabrizio Forché fu il suo portavoce, prendendosi così un periodo di aspettativa dall'attività di giornalista per poi tornare appunto e diventare responsabile della redazione romana del Sole 24 Ore e vice direttore. E poi tanti altri ricordi e anche un articolo sul cordoglio delle istituzioni. Trovate tutto a pagine 8 e 9. Ma richiamato tutto in prima pagina, con anche un disegno di Domenico Rosa, e vi leggo la prima parte di questo ricordo di Roberto Napoletano. «Siete stati eccezionali, avete fatto tutto il possibile», dice la moglie Valentina. Non abbastanza», risponde Marco Ranieri, il primario della rianimazione del Policlinico di Roma. «Negli occhi ti accorgi che l'uomo viene prima del medico, appena detto che per Fabrizio è morte cerebrale». E poi si ricordano anche le reazioni, perché naturalmente la famiglia era tutta al capezzale, però a pagina 9 anche appunto tutto il percorso, pagina 8 e 9, tutto il percorso professionale di Fabrizio. Tra l'altro sul sito, questo è un modo un po' per tenerlo vivo, trovate molti dei suoi editoriali, delle sue interviste. Anche se probabilmente in situazioni come queste la reazione vera che hanno, insomma, le persone che hanno più voluto bene a una persona che non c'è più, che se n'è andata in un modo così improvviso e inaspettato a soli 49 anni non compiuti, è che il mondo dovrebbe fermarsi, no? La famosa poesia di Oden, il mondo purtroppo non si ferma. E anche quindi il Sole 24 Ore ha un'apertura di cronaca dedicata a un bilancio su quelli che sono i bond europei sul primo trimestre. I titoli di Stato europei chiudono un trimestre in rally grazie alle mosse della BCE. Titolo: corsa ai bond europei, BTP e bonus sul podio. Ricordiamo che da lunedì ci sarà un nuovo BTP Italia che appunto verrà collocato sul mercato. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore, anche come ogni domenica, la lettera al risparmiatore di Vittorio Carlini. Questa settimana è dedicata a Moncler, l'azienda che da produttore di piumini, possiamo dire di lusso, perché non sono certo piumini così qualsiasi, adesso ha diversificato anche in tante altre categorie di prodotto e soprattutto ha investito molto sulla rete dei negozi. Quindi Moncler spinge sui negozi icona per valorizzare il proprio marchio. Trovate poi l'analisi del bilancio 2015 di Moncler a pagina 20 del Sole. Il consueto intervento della domenica dell'arcivescovo di Chieti Vasco Bruno Forte, intitolato La ragione, la poesia e l'amore divino, che tra l'altro è in realtà un'anticipazione di un libro in uscita appunto di Bruno Forte. La prima pagina del Corriere della Sera è dedicata all'inchiesta sulle pressioni per spingere le trivellazioni, in particolare in Basilicata, naturalmente con il legame alle dimissioni del ministro Guidi di giovedì sera. Il titolo: Total pressioni sui ministri. Ora c'è anche un'indagine per disastro ambientale, si profila una mozione di sfiducia del centrodestra. La risposta di Renzi è stata semplicemente che queste paventate mozioni di sfiducia e in generale le critiche all'emendamento che rese possibile velocizzò i lavori appunto a Tempa Rossa in Basilicata, e la famoso emendamento di cui Federica Guidi parlò al telefono con il compagno, anche se l'emendamento era di fatto già passato, e comunque a questo sono dovute le sue dimissioni, secondo Renzi appunto è soltanto un modo per cercare di porre fine al suo governo, e da qui appunto una replica durissima: non ci faremo intimidire. L'inchiesta del Corriere della Sera, però, con la fotonotizia di copertina, si lega al caso di Giulio Regeni, ormai ucciso dopo giorni di torture in Egitto oltre 2 mesi fa, e il titolo però dell'inchiesta, che poi trovate a pagina 12 e 13 del Corriere, è "Prelevati e spariti in Egitto, 396 casi negli ultimi 8 mesi. Siccome proprio ieri il ministro degli esteri egiziano è tornato a dire che il caso Regeni è un caso isolato, questa inchiesta sembra dimostrare l'esatto contrario, cioè che le sparizioni, magari anche a seguito di torture prolungate, sono tutt'altro che casi isolati in Egitto, riguardano stranieri ma anche egiziani. La Repubblica, Boschi dai PM, ecco la mia difesa. Sapete che il ministro per i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, e l'ex ministro Federica Guidi, ministro per lo sviluppo economico, verranno entrambe ascoltate dai PM, che dalla Basilicata andranno in trasferta a Roma proprio per ascoltarle. L'inchiesta e i silenzi degli indagati, l'inchiesta infatti va avanti, ci sono anche, sapete, c'è anche la richiesta di arresto per il compagno di Federica Guidi, Gemelli, per ora è stata respinta questa richiesta di arresto, ma la procura l'ha ripresentata. La fotonotizia è dedicata però alla Siria, perché ci sarebbe un documento della comunità degli Alawiti, una comunità che finora ha sostenuto il regime di Bashar al-Assad, che adesso dice basta, cioè gli errori sono troppi, la guerra civile di 5 anni è naturalmente responsabilità quasi totale di Assad, con potremmo dire la connivenza della comunità internazionale, è troppo, adesso la misura è colma, togliamo il nostro chiediamo un nuovo corso a Damasco. Il Messaggero, si indaga sulle navi della Marina, l'inchiesta è sempre quella, però qui il focus è sull'ammiraglio De Giorgi, che tra pochi mesi andrà in pensione, per il capo di Stato Maggiore della Marina Militare Italiana, andrà in pensione per limiti di età, sospettato di scambio con favori con Gemelli, il compagno di Federica Guidi, per il quale viene chiesto l'arresto. La fotonotizia, come forse potete immaginare, è però dedicata al derby, che quello che viene definito il derby che non c'è più, perché sapete che questa sera per Lazio-Roma lo stadio sarà semideserto, perché è vietato ai tifosi alle frange più estreme delle due tifoserie. Una notizia in prima pagina sul Messaggero, l'ha trovata anche su altri giornali, ma non con questa enfasi, riguarda la Grecia. Infatti, secondo Wikileaks, la Grecia sarebbe pronta a ritirare il suo sostegno, all'erogazione di nuovi fondi per salvare la Grecia. Il premier Tsipras ha chiesto chiarimenti, l'articolo di Anna Guaita che trovate a pagina 7, Grecia, l'FMI è pronto a chiamarsi fuori, scontro con Berlino sul taglio dei debiti. La Stampa, banche e petrolio, le mie verità, è un virgolettato perché La Stampa ha un'intervista al ministro Maria Elena Boschi, intitolata, l'intervista è di Jacopo Iacoboni, posso sbagliare ma mai in mala fede, i poteri forti contro di noi, quindi torna questa idea del comunque noi facciamo tutto in buona fede, e quest'altra idea, ci sono appunto i poteri forti contro di noi, che non mai meglio identificati. Sul compagno di Federica Guidi dice mai conosciuto, possono dirci incapaci ma non disonesti, ancora sulla questione del padre che è indagato per il crack di Banca Etruria, favori a mio padre, non c'ero nelle riunioni, il decreto lo fece il MEF, cioè il Ministero delle Finanze. La questione di Banca Etruria naturalmente sapete è apertissima, quindi è chiaro che in questo momento Maria Elena Boschi adesso è nel mirino per questa intercettazione, dove Federica Guidi dice se anche Maria Elena Boschi sarà d'accordo, l'emendamento di fatto passerà, da qui la richiesta dei PM di sentire anche Maria Elena Boschi, ma il suo nome è ovviamente associato anche a quello dell'inchiesta che ha travolto il padre come vicepresidente di Banca Etruria. L'Avvenire anche in questo caso si concentra sull'inchiesta che è in corso, che è partita dalla Basilicata, titolando addirittura disastro ambientale. A Potenza si allarga l'indagine presso sentite Guidi e Boschi, e poi la reazione di Renzi, che abbiamo visto, non ci mandano a casa. La fotonotizia però è dedicata all'annuncio fatto ieri dall'Austria. Muri ed eserciti, l'Austria accelera, soldati al Brennero per fermare gli extracomunitari. Il Giornale, anche in questo caso sull'inchiesta che parte dalla Basilicata, i magistrati a Palazzo Chigi, il riferimento è, come dicevamo, al fatto che i magistrati della Basilicata andranno a Roma a sentire l'ex ministro Guidi e il ministro Boschi. Libero, i PM puntano la Boschi, i magistrati vogliono interrogare la titolare delle riforme, è stata lei a firmare l'emendamento al centro. Ricordiamo che nei giorni scorsi ha ripetuto e continua a ripetere: io quell'emendamento lo rifermerei tranquillamente. Quindi la questione in realtà è la questione più spinosa, è quella legata alle dimissioni del ministro Guidi, che diede l'anticipazione dell'imminente approvazione di questo emendamento al compagno che da questo emendamento, tramite i suoi rapporti di lavoro con la Total, traeva parecchi vantaggi. Ci fermiamo un attimo per le informazioni e anche quelle sul meteo, ci ritroviamo subito dopo. Tempo in diretta. Previsioni a cura di Trebi Meteo. Una buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo agli ascoltatori di Radio 24. Ci attende una domenica con tempo nel complesso discreto in gran parte d'Italia. La nuvolosità che ieri ha insistito in molte zone si sta infatti diradando. Ancora qualche velatura sarà presente questa mattina e più che altro sulle regioni di nord-ovest insisterà ancora qualche nuvola in più. Tra Val d'Aosta e Piemonte prevediamo anche qualche gocciolina di pioggia a ridosso delle zone montuose. Ma dalle altre parti, ripeto, le schiarite si faranno davvero ampie e con temperature particolarmente miti. Oggi pomeriggio toccheremo anche i 24-25 gradi al centro-sud e punte fino a 21-22 al nord. Vi segnalo per finire che questa sera sulle regioni di nord-ovest la nuvolosità tenderà ad aumentare e torneranno anche piogge un pochino più diffuse. Con questo è tutto, ma per dettagli sulla vostra località vi consiglio di scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buona domenica, eravamo sulle prime pagine dei giornali. Vi segnalo quella del Fatto Quotidiano che attacca duramente Renzi, il titolo è "Ha fatto tutto Renzi", il riferimento è al famigerato emendamento di cui Federica Guidi diede in anticipo notizia al compagno e per questo poi intercettata, si è poi dimessa. Sulla prima pagina anche una polemica tra il Fatto Quotidiano e l'Unità, perché sull'Unità è apparso un articolo di Fabrizio Rondolino che rispondeva a sua volta alle critiche di Saviano al comportamento di Maria Elena Boschi, dicendo e quello che scrive Rondolino è: come un qualunque mafiosetto di quartiere, il prode Saviano si guarda bene dallo specificare quali siano le tante ombre sulla ministra Maria Elena Boschi. Secondo Travaglio, questa frase oltraggiosa non è tratta da uno dei tanti house organ della camorra casalese che da anni tengono sotto tiro lo scrittore di Gomorra, e nemmeno dalla più becera stampa berlusconiana che lo attacca da quando osò occuparsi dell'ex cavaliere. No, questa frase calunniosa, non una legittima critica, ripetiamo, Saviano come un qualunque mafiosetto di quartiere, è apparsa ieri sull'Unità a firma di Fabrizio Rondolino, affranto dalla richiesta dello scrittore alla Boschi di chiarire in Parlamento il suo ruolo nello scandalo Petroli. Questa polemica probabilmente continuerà, anche perché oggi sull'Unità c'è un altro articolo di Fabrizio Rondolino intitolato "Ma che c'entra il governo? Un tempo nelle inchieste si doveva trovare il colpevole. Ora l'interrogativo che tiene tutti con il fatto sospeso è il reato. Qual è?" No, il reato, in realtà di reati ce n'è parecchi, caro Rondolino. Comunque questa è addirittura l'apertura dell'Unità, che titola "Gli sfascia tutto. Da Grillo querelato a Salvini, ecco la curva sud che tifa solo per il fallimento dell'Italia". E tra l'altro comunque vi segnaliamo anche la trascrizione dell'intervento della newsletter di Renzi, che ogni sabato lui pubblica su internet, e qui risponde, in particolare entra nel merito di questo famigerato appunto emendamento che rese possibile, diede il via alle trivellazioni in Basilicata. E tra l'altro Renzi proprio ripercorre la storia di questo progetto industriale, che è un progetto francese della Total in Basilicata, e che però era fermo, ricorda Renzi, dal 1989 per le difficoltà burocratiche che spesso affliggono gli insediamenti industriali in Italia. Abbiamo avuto anche in mesi recenti molti esempi. La Gazzetta dello Sport oggi non è rosa ma è verde, perché compie 120 anni e il primo numero all'epoca era verde. Lo spunto, però, la storia di copertina è dedicata a Muhammad Ali, ex Cassius Clay, il grande pugile, perché per festeggiare i 120 anni la Gazzetta dello Sport ha anche commissionato una sorta di, o fatto un'indagine con i suoi lettori, chi è lo sportivo più grande, e secondo appunto alla fine il risultato è che è Muhammad Ali. Ali il più grande, per il nostro giornale, l'uomo che mandava gli avversari KO con lo sguardo, batte anche Maradona. È lui la leggenda delle leggende. E poi il direttore della Gazzetta dello Sport, Andrea Monti, che racconta la nostra storia, la vostra festa. E con la Gazzetta dello Sport anche oggi un supplemento dedicato appunto alla storia di questo 120 anni, con tante delle prime pagine più famose, che naturalmente raccontano a loro volta gli eventi più famosi, soprattutto di calcio, come potete immaginare, degli ultimi 120 anni. Ma passiamo alle pagine interne dei giornali e torniamo al Sole 24 Ore. Qui, a proposito di investimenti bloccati o la famosa sindrome NIMBY, che è un acronimo che viene dall'inglese, che vuol dire not in my backyard, cioè facciamo qualsiasi cosa ma che non sia nel mio giardino, nel giardino dietro casa mia. Quindi, come dire, sì, a volte i progetti sono belli, sono utili, ma non li voglio, non voglio che in qualche modo disturbino la mia quiete personale o il piccolo giardinetto in cui vivo. Questo è il senso dell'acronimo, ma il titolo dell'inchiesta di Jacopo Giliberto: a rischio investimenti per altri 6 miliardi. Tra mala burocrazia, comitati NIMBY, inchieste e referendum antitrivelle, l'Italia potrebbe perdere anche l'ultima quota di un piano da 16 miliardi che le compagnie petrolifere erano pronte a investire. E ci sono molti dati in questo articolo, compreso quello che certo fa sempre paura, l'idea di una trivellazione sulle bellissime coste italiane, però è anche vero che di disastri ambientali legati alle compagnie petrolifere negli ultimi anni non se ne ricordano, e che quindi forse al di là appunto dell'immaginario questo tipo di attività industriale è meno pericolosa di quello che sembra. In ogni caso, l'importante è ragionare un po' sui dati, ed è quello che fa Jacopo Giliberto nel suo articolo. A proposito di dati e di una misura che è stata molto importante per la ripresa del settore dell'edilizia, a pagina 6, lavori in casa, il bonus vola a inizio anno. A gennaio investimenti agevolati a 4,7 miliardi contro, pensate, i 2,4 del 2015, quindi con un aumento del 97%, quindi questo bonus continua a funzionare. Dalla pagina interna invece del dorso di Imprese e Territorio, un approfondimento sulla questione degli allevatori e delle famigerate quote latte. Il governo rafforza il piano latte, via la campagna promozionale a sostegno del consumo, scattano i benefici delle agevolazioni fiscali creditizie. Obiettivo: contrastare il crollo dei prezzi, perché forse avete sentito anche nei giorni scorsi, con le diverse manifestazioni della Coldiretti, per via del crollo appunto dei prezzi del latte e del fatto che non viene più ritirato come una volta, anche se cioè comprato dagli allevatori, anche se poi non destinato al mercato perché manca la domanda, sono a rischio 120.000 posti. Dalle pagine interne del Corriere della Sera vi segnalo un'intervista a Deborah Serracchiani, che è in questo momento governatore del Friuli Venezia Giulia, presidente del Friuli Venezia Giulia dal 2013, ma anche vicepresidente del Partito Democratico. Forse qualcuno la ricorda anni fa sul palco di una manifestazione a Roma insieme a Nanni Moretti, quando al governo c'era il centrodestra di Silvio Berlusconi, dicendo con questi dirigenti non vinceremo mai, è diventata una renziana di superferro, potremmo dire. E su questa intervista si concentra in particolare sulle accuse, le ultime accuse rivolte al governo di essere in qualche modo conniventi con i petrolieri. Il virgolettato scelto per l'intervista è: Federica ha fatto un errore, Federica naturalmente Guidi, ma il governo è trasparente, lobby denigratorio solo qui. Per quanto riguarda il progetto di Tempa Rossa in Basilicata, lo definisce utile e dice che all'epoca anche Vendola disse di sì. Un'altra intervista di Tommaso Labate sul Corriere ad Alfio Marchini, candidato del centrodestra. Ieri, secondo un sondaggio di Pagnoncelli, potrebbe avere circa il 6,5% dei voti a Roma, quindi comunque non riuscirebbe ad andare al ballottaggio come sindaco di Roma. Comunque il titolo dell'intervista è: alla fine tra i moderati resteranno in campo soltanto in due, con tre sfidanti più storace si rischia di mettere in scena la fiera dell'ego. E naturalmente qui il riferimento è appunto al fatto che il centrodestra non si presenta unito, beh, come del resto vale un po' anche per il centrosinistra, alle elezioni al sindaco di Roma. Dal Corriere della Sera anche un'inchiesta di Sara Gandolfi, veramente impressionante, su una delle tante tragedie dimenticate mentre ci occupiamo o di vicende interne o di altre vicende importanti internazionali. Questa, che appunto dico una tragedia dimenticata, è l'ennesima siccità nel Corno d'Africa. La grande sete caccia all'acqua nel Corno d'Africa, migliaia di somali rischiano la vita. Sempre dal Corriere della Sera, che sapete la domenica ha un approfondimento sulla salute, un articolo molto interessante sul perché sognare ci è indispensabile. Alle molte già note funzioni della nostra creatività nel sonno si aggiunge quella di mettere in relazione aree del cervello che durante la veglia tendono a restare separate. Recenti studi rivalutano anche l'importanza degli incubi, pensate, e il ruolo anticipatorio che talvolta riveste l'attività onirica, che però, insomma, diciamolo, visto che poi ciclicamente vengono fuori nuovi studi, resta un mistero l'attività onirica, come del resto resta un mistero il nostro cervello in gran parte. Dalle pagine interne della Repubblica un approfondimento su come cambiano gli orari di lavoro: il lavoro di domenica diventa obbligato, si riposa il mercoledì. Sempre più imprese nel commercio e nei servizi impongono ai dipendenti la presenza nei giorni festivi, quindi un po' nastri di lavoro durante la settimana che cambiano, non è più la classica settimana lunedì-venerdì o lunedì-sabato, ma appunto c'è la domenica che poi viene recuperata con un giorno di riposo, ma che naturalmente stravolge i ritmi di vita, in particolare se si deve gestire anche una famiglia. A proposito di crisi dimenticate o di cui si parla poco, il Messaggero si concentra su un nuovo possibile focolaio di crisi. In Armenia e Azerbaigian si riaccende la guerra, decine di morti nel Nagorno-Karabakh, regione caucasica contesa, pensate, da un secolo. Dietro al conflitto anche lo scontro tra Russia e Turchia, e Mosca dà la colpa agli Stati Uniti. Ci fermiamo un attimo per gli aggiornamenti sul traffico. Pantera Millesimato, l'IRP di Infracomitalia per le aziende vitivinicole, sempre col TH. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Per l'ultima parte della nostra rassegna eravamo sulle pagine interne dei giornali. Dell'Avvenire vi segnalo un'inchiesta di Lucia Capuzzi inviata a Oaxaca in Messico. Neanche i dollari frenano l'esodo invisibile, questo è il titolo. Ancora migliaia i baby migranti che rischiano. Aumentano i ragazzi messicani che scappano dai narcos, perché sapete che i narcos, cioè i narcotrafficanti, cercano di arruolare quando sono ancora giovanissimi questi ragazzi messicani, anche dandogli della droga e rendendoli subito schiavi anche da quel punto di vista, e poi facendone o dei baby soldati o comunque dei corrieri. Da quando Peña Nieto, l'attuale presidente del Messico, con il Plan Frontera ha inaspito i controlli, fanno rotte meno battute e finiscono nelle mani dei trafficanti. Un approfondimento dall'Avvenire sulla questione degli allevatori e del latte: prezzi da fame, invasione straniera, gli allevatori vanno in piazza. c'è questo allarme appunto della Coldiretti perché sono a rischio moltissime stalle italiane. Dal Fatto Quotidiano vi segnalo un approfondimento su una guerra nei cieli, potremmo chiamarla così, comunque in realtà è una guerra tariffaria tra Ryanair, la compagnia low cost per eccellenza, e all'Italia in questo caso. Secondo quello che racconta Giorgio Meletti, la compagnia low cost, che ha già lasciato l'aeroporto di Alghero per le eccessive tasse a cui viene sottoposta, minaccia di tagliare altre rotte. All'Italia in guerra contro Ryanair, anche in questo caso, secondo il Fatto, ci sarebbe lo zampino di Renzi che vorrebbe aiutare l'ex compagnia di bandiera all'Italia. Ma veniamo ai supplementi domenicali e naturalmente cominciamo dal nostro, la domenica, e come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi parte da una, si chiama L'ultima stanza, ed è una citazione del poeta americano e romanziere Jack Kerouac. Rientrando nella chiesa del mio battesimo, fu come se mi riconciliassi con l'ultima stanza di casa, la più ampia, la più aperta all'ospitalità, con negli angoli l'odore della mia infanzia. Questa è la citazione. Persino Jack Kerouac, il vagabondo di On the Road, confessava di stare affascinato e emozionato nella chiesa della sua adolescenza. Molti, anche non più credenti, mi hanno ripetuto la stessa confessione nel tempio, forse modesto, del loro battesimo e della loro infanzia, e si ritrovano l'odore non dell'incenso, ma il profumo più puro e felice della loro vita. Quelle che abbiamo citato sono le parole della Messa dell'Uomo Disarmato, opera di un prete scrittore, Don Luisito Bianchi. Ecco, scusatemi, la citazione iniziale appunto era di Don Luisito Bianchi, morto nel 2012, vissuto come operaio e poi come mistico. È significativo che la stanza ritrovata non sia la prima, come verrebbe spontaneo dire, ma l'ultima. Sì, perché scavando in profondità nell'anima e nella vita viene alla luce la bontà sepolta, appunto la stanza più bella ospitale che abbiamo abbandonato e che dovrebbe invece diventare la definitiva. La copertina, però, il pezzo di copertina vero e proprio del Sole 24 Ore è una lunga recensione di Armando Massarenti all'ultimo libro di Benedetta Craveri, che si intitola Gli ultimi libertini, pubblicato da Delphi, un libro di 620 pagine. Benedetta Craveri racconta 7 storie di aristocratici che credettero nella libertà, non solo quella praticata nelle alcove, ma anche quella civile e politica, ma i loro modi eleganti vennero travolti dal terrore rivoluzionario. E poi in copertina anche un ricordo raccolto da Cristina Battocletti di Boris Pahor, di Imre Kertész, il premio Nobel scomparso questa settimana, e aveva vinto il premio Nobel nel 2002, e appunto viene ripercorso un po' il valore della sua opera, anche di testimone dell'Olocausto. Il memorandum del direttore del Sole 24 Ore questa settimana non c'è, anche perché, come abbiamo visto, ha firmato il lungo ricordo di Fabrizio Forché, il vice direttore del Sole 24 Ore, morto venerdì e non aveva ancora 49 anni, ne abbiamo parlato all'inizio di questa rassegna. Un altro bellissimo intervento sul Sole 24 Ore della domenica è quello di Elena Cattaneo, che è senatrice a vita, scienziata e docente all'Università Statale di Milano. Il suo è una sorta di ennesimo manifesto per investire di più sulla ricerca. L'innovazione riparta dall'etica per una costituente della ricerca. Le modalità di assegnazione dei fondi dimostrano la necessità di un'Agenzia Nazionale della Ricerca garante dei meccanismi di valutazione, e quindi appunto qui si ipotizza un metodo per assegnare nel modo più meritocratico possibile i fondi per la ricerca, che però deve essere, almeno in parte, secondo Elena Cattaneo, finanziata pubblicamente, anche se poi il ruolo delle imprese private naturalmente è altrettanto importante. E poi vi segnaliamo, visto che 10 giorni fa è uscito anche questo nuovo film, La macchinazione, sulla morte di Pierpaolo Pasolini, un suo pezzo sulla poesia, Pasolini dimenticato, proprio un suo intervento, leggere i poeti del proprio tempo, un invito appunto a leggere la poesia che naturalmente all'epoca, negli anni 70, era di un certo tipo, adesso di poeti ce ne sono tanti altri. L'invito forse potrebbe essere quello a leggere o rileggere i poeti di tutte le epoche. Nota sull'odierna poesia è un invito a tuffarsi nella contemporaneità per ritrovare anche l'amore per i classici. La lettura, il supplemento del Corriere della Sera, con la copertina come sempre affidata a un artista, questa settimana è Sara Lucas, ma vi segnalo soprattutto le pagine 2 e 3, un articolo, un lungo articolo di Giulio Giorello, filosofo della scienza, che si intitola La dittatura del caso e prende spunto dall'incidente che ha ucciso 7 studentesse dell'Erasmus in Spagna 2 settimane fa. 7 studentesse italiane morte durante una tragica gita in Spagna il 20 marzo. 3 italiani scampano per fortuna alle stragi di Bruxelles del 22 di marzo. Che cos'è quella cosa che alcuni in passato hanno chiamato fato e altri oggi definiscono destino? Forse una lacuna del sapere umano, la presenza di una causa che non vogliamo o non riusciamo a individuare. Sicuramente non ci sono risposte certe, però è chiaro, ci si interroga sul perché, la morte tocca alcune persone, in particolare quando appunto sono giovani e sembra così contro natura che scompaiano, che del resto è anche, come dicevamo, un po' il caso del nostro Fabrizio Forché, che avrebbe compiuto 49 anni il 23 di maggio. Un nuovo approfondimento della lettura sulla bellissima fiera del libro per ragazzi che si apre domani a Bologna, è la più importante al mondo e, come dicevamo anche settimana scorsa, è molto interessante anche perché la maggior parte dei libri per bambini e ragazzi sono illustrati e queste illustrazioni hanno un grandissimo valore, quindi la mostra, la fiera è una fiera del libro ma anche corredata da tante mostre ed eventi, e quindi Cristina Taglietti ci racconta 50 artisti illustrano il mondo. Macro del Messaggero ha una copertina dedicata a Frankenstein, così mostro, così umano, un successo che sembra non esaurirsi mai, quello di Frankenstein, la spaventosa creatura ideata dalla scrittrice Mary Shelley a prima dell'Ottocento. 2 film americani ora in uscita in Italia, serie TV e biografie. Il pubblico continua ad applaudirlo, forse perché, come dice il New York Times, la lotta contro la razza diabolica sposta gli antagonismi e gli orrori fuori dalla società. La Domenica della Repubblica invece ha un'intervista di Nicola Lagioia a Elena Ferrante, perché scrivo, parrebbe finalmente risolto il mistero, anche se non abbiamo ancora una fotografia, ma in fondo cosa importa, di questa scrittrice che ha avuto così tanto successo, ma sulla cui identità ci si è interrogati a lungo. L'intervista è illustrata da bellissimi disegni di Gipi. Purtroppo era l'ultima segnalazione che riesco a farvi. Aggiungo solo, per la serie Straparlando, le interviste di Antonio Gnoli, una bellissima intervista al papà di Elisabetta Vittorio Sgarbi, Giuseppe Sgarbi, e però veramente non riesco a segnalarvi nient'altro, anche se i giornali oggi, come ogni domenica, sono molto ricchi. Un grazie a Carmelo Lauricella in regia e ancora una buona domenica a tutti da Giulia Crivelli.